Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. La Marchesa era là, col suo vestito di seta nera, la cravattina di pizzo bianco, con quel suo aspetto maestoso e benigno che incantava Eugenia, le mani bianche, piene di gioielli. Ma il viso non si vedeva bene, era una macchia bianchiccia, ovale. Là sopra tremavano delle piume viola. «Sentite, dovreste rifarmi il materasso del bambino. Potete salire verso le 10:30?» «Con tutto il cuore, ma io sarei disposto nel pomeriggio, signora Marchesa.» «Eh no, don Peppino, di mattina deve essere. Nel pomeriggio viene gente. Vi mettete sul terrazzo e lavorate. Non vi fate pregare, fatemi questo favore. Ora sta suonando la messa. Quando sono le 10:30 mi chiamate.» E senza aspettare risposta, si allontanò, scansando accortamente un filo d'acqua gialla che scorreva da un terrazzino e aveva fatto una pozza a terra. «Papà!» disse Eugenia andando dietro a suo padre che rientrava nel basso. «La Marchesa quant'è buona! Vi tratta come un galantuomo! Il Signore glielo deve rendere!» «Una buona cristiana, questo è!» rispose con tutt'altro significato di quello che si sarebbe potuto intendere don Peppino. Con la scusa che era proprietaria della casa, la Marchesa d'avanzo si faceva servire continuamente dalla gente del cortile. A don Peppino, per i materassi, metteva in mano una miseria. Rosa, poi, era sempre a sua disposizione per le lenzuola grandi. Anche se le ossa le bruciavano, si doveva alzare per servire la Marchesa. È vero che le figlie gliele aveva fatte chiudere lei, e così aveva salvato due anime dai pericoli di questo mondo, che pei poveri sono tanti. Ma per quel terraneo, dove tutti si erano ammalati, si pigliava 3.000 lire, non una di meno. «Il cuore ci sarebbe, sono i soldi che mancano», amava ripetere con una certa flemma. «Oggi, caro don Peppino, i signori siete voi che non avete pensieri. Ringraziate, ringraziate la provvidenza che vi ha messo in questa condizione, che vi ha voluto salvare!» Donna Rosa aveva una specie di adorazione per la Marchesa, per i suoi sentimenti religiosi. Quando si vedevano parlavano sempre dell'altra vita. La Marchesa ci credeva poco, ma non lo diceva, ed esortava quella madre di famiglia a pazientare, sperare. Dal letto, donna Rosa chiese, un po' preoccupata, «L'hai parlato?» «Vuole fare il materasso al nipote», fece don Peppino annoiato. Portò fuori il treppiede col fornello per scaldare un po' di caffè, regalo delle monache, e rientrò ancora per prendere dell'acqua in un pentolino. «Non glielo faccio per meno di 500, disse. «È un prezzo giusto.» «E allora, chi va a ritirare gli occhiali di Eugenia?» domandò zia Nunzia uscendo dallo sgabuzzino. Aveva, sopra la camicia, una gonna scucita, ai piedi le ciabatte. Dalla camicia le uscivano le spalle puntute, grigie, come pietre. Si stava asciugando la faccia in un tovagliolo. «Io per me non ci posso andare, è Rosa, è malata!» Senza che nessuno li vedesse, i grandi occhi quasi ciechi di Eugenia si riempirono di lacrime. Ecco, forse sarebbe passata un'altra giornata senza che avesse i suoi occhiali. Andò vicino al letto della madre, abbandonò le braccia e la fronte sulla coperta in un atteggiamento compassionevole. Una mano di donna Rosa si allungò a carezzarla. «Ci vado io, Nunzia, non vi scaldate. Anzi, uscire mi farà bene.» «Mamma!» Eugenia le baciava una mano. Alle 8 c'era una grande animazione nel cortile. Rosa era uscita in quel momento dal portone, alta figura allampanata, col cappotto nero, senza spalline, pieno di macchie e corto da scoprirle le gambe simili a bastoncini di legno, la borsa della spesa sotto il braccio, perché al ritorno dall'occhialaio avrebbe comprato il pane. Don Peppino, con una lunga scopa in mano, stava togliendo l'acqua di mezzo al cortile, fatica inutile perché il mastello ne dava continuamente, come una vena aperta. Là dentro c'erano i panni di due famiglie, le sorelle Gregorio, del primo piano, e la moglie del cavaliere Amodio, che aveva avuto un bambino 2 giorni avanti. Era appunto la serva della Gregorio, Lina Tarallo, che stava sbattendo i tappeti a un balconcino con un fracasso terribile. La polvere scendeva poco a poco, mista vera immondizia come una nuvola su quella povera gente. Ma nessuno ci faceva caso. Si sentivano strilli acutissimi e pianti. Era zia Nunzia che, dal basso, chiamava a testimoni tutti i santi per affermare che era stata una disgraziata e la causa di tutto questo era Pasqualino, che piangeva e urlava come un dannato perché voleva andare dietro alla mamma. «Vedetelo, questo sforcato!» gridava zia Nunzia. «Madonna bella, fatemi la grazia, fatemi morire, ma subito, se ci state! Tanto in questa vita non stanno bene che i ladri e le male femmine!» Teresella, più piccola di suo fratello, perché era nata l'anno che il re era andato via, seduta sulla soglia di casa, sorrideva e ogni tanto leccava un cantuccio di pane che aveva trovato sotto una sedia. Seduta sullo scalino di un altro basso, quello di Mariuccia la portinaia, Eugenia guardava un pezzo di giornale per ragazzi che era caduto dal terzo piano con tante figurine colorate. Ci stava col naso sopra, perché sennò non leggeva le parole. Si vedeva un fiumiciattolo azzurro in mezzo a un prato che non finiva mai e una barca rossa che andava, andava, chissà dove. Era scritto in italiano e per questo lei non capiva troppo, ma ogni tanto senza un motivo rideva. «Così oggi ti metti gli occhiali!» disse Mariuccia affacciandosi alle sue spalle. Tutti nel cortile lo sapevano. E perché Eugenia non aveva resistito alla tentazione di raccontarlo e anche perché Zinunzia aveva trovato necessario far capire che in quella famiglia lei spendeva del suo e che, insomma, te li ha fatti la zia, eh? Soggiunse Mariuccia sorridendo bonariamente. Era una donna piccola, quasi nana, con un viso da uomo pieno di baffi. In quel momento si stava pettinando i lunghi capelli neri che gli arrivavano al ginocchio. Una delle poche cose che attestassero che era anche una donna. Se li pettinava lentamente, sorridendo con i suoi occhietti di topo, furbi e buoni. «Mamma li andate a ritirare a via Roma», disse Eugenia con uno sguardo di gratitudine. «Li abbiamo pagati 8.000 lire, sapete? Vive, vive! La zia è...» stava aggiungendo «proprio buona!» quando Zinunzia, affacciandosi al basso, chiamò inviperita «Eugenia!» «Eccomi qua, zia!» e corse come un cane. Dietro la zia, Pasqualino, tutto rosso e sbalordito, con una smorfia terribile tra lo sdegno e la sorpresa, aspettava. «Vammi a comprare 2 caramelle da 3 lire l'una da Don Vincenzo il tabaccaio, torna subito!» «Sì, zia!» disse Eugenia. Prese i soldi nel pugno, senza più curarsi del giornale, e uscì lesta dal cortile. Per un vero miracolo, scansò un carro di verdura alto come una torre, tirato da 2 cavalli che le stava venendo addosso all'uscita dal portone. Il carrettiere, con la frusta sguainata, sembrava cantasse e dalla bocca gli uscivano intanto queste parole. «Bella, fresca, strascicate, piene di dolcezza come un canto d'amore». Quando il carro fu alle sue spalle, lei, alzando in alto i suoi occhi sporgenti, scorse quel bagliore caldo, azzurro, che era il cielo, e sentì, senza però vederla chiaramente, la gran festa che c'era intorno. Carretti uno dietro l'altro, grossi camion con americani vestiti di giallo che si sporgevano dal finestrino, biciclette che sembrava rotolassero. In alto i balconi erano tutti ingombri di cassette fiorite e alle inferriate penzolavano come gualdrappe di cavallo, come bandiere coperte imbottite gialle, rosse, straccetti celesti di bambini, lenzuola, cuscini e materasse esposte all'aria, e si snodavano le corde dei canestri che scendevano in fondo al vicolo per ritirare la verdura o il pesce offerto dai venditori ambulanti. Benché il sole non toccasse che i balconi più alti, la strada era come una spaccatura nella massa disordinata delle case, e il resto non fosse che ombra e immondizia, si presentiva là dietro l'enorme festa della primavera. E pur così piccola e scialba, legata come un topo al fango del suo cortile, Eugenia cominciava a respirare con una certa fretta, come se quell'aria, quella festa e tutto quell'azzurro che erano sospesi sul quartiere dei poveri fossero anche cosa sua. Mentre entrava dal tabaccaio, la sfiorò il paniere giallo della serva di Amodio, Buon Incontri Rosaria. Era grassa, vestita di nero, con le gambe bianche, il viso acceso, pacifico. «Dì a mamma se oggi può salire un momento sopra. La signora Amodio le deve fare un'ambasciata». E Eugenia la riconobbe dalla voce. «E ora non ci sta. È andata via Roma a ritirarmi gli occhiali». «Io pure me li dovrei mettere, ma il mio fidanzato non vuole». Eugenia non afferrò il senso di quella proibizione. Rispose solo, ingenuamente: «Costano assai assai, bisogna tenerli riguardati». Entrarono insieme nel buco di Don Vincenzo. C'era gente. Eugenia era respinta sempre indietro. «Fatti avanti! Sei proprio ciecata!» osservò con un bonario sorriso la serva di Amodio. «Ma Zinunzia, ora le fa gli occhiali!» intervenne strizzando l'occhio con aria d'intesa scherzosa Don Vincenzo, che aveva sentito. Anche lui portava gli occhiali. «Alla tua età», disse porgendole le caramelle, «ci vedevo come un gatto, infilavo gli aghi di notte, mia nonna mi voleva sempre appresso». «Ma ora sono invecchiato». Eugenia assentì vagamente. «Le mie compagne, nessuna tengono le lenti», disse. Poi, rivolta alla Buon Incontri, ma parlando anche per Don Vincenzo: «Io sola, 9 diottrie da una parte e 10 dall'altra. Sono quasi ciecata», sottolineò dolcemente. «Vedi quanto sei fortunata», disse Don Vincenzo ridendo, e a Rosaria: «Quanto di sale?» «Povera creatura», commentò la serva di Amodio mentre Eugenia usciva tutta contenta. «Quella è l'umidità che l'ha rovinata. In quella casa ci chiove. Ora Donna Rosa ha dolori nelle ossa. Datemi un chilo di sale grosso e un pacchetto di quello fino. Sarete servita». «Ah, che mattinata, è oggi, Don Vincenzo. Sembra già l'estate». Camminando più adagio di quando era venuta, Eugenia cominciò a sfogliare, senza rendersene ben conto, una delle due caramelle, e poi se la infilò in bocca. Sapeva di limone. «Dico a Zinunzia che l'ho perduta per la strada», propose dentro di sé. Era contenta, non le importava se la zia, così buona, si sarebbe arrabbiata. Si sentì prendere una mano e riconobbe Luigino. «Sei proprio ciecata», disse ridendo il ragazzo. «E gli occhiali? Mamma è andata a prenderli a via Roma». «Io non sono andata a scuola, oggi è una bella giornata. Perché non ce ne andiamo a camminare un poco?» «Sei pazzo! Oggi devo stare buona!» Luigino la guardava e rideva, con la sua bocca come un salvadanaio, larga fino alle orecchie, sprezzante. «Tutta spettinata!» Istintivamente Eugenia si portò una mano ai capelli. «Io non ci vedo buono e mamma non tiene tempo», rispose umilmente. «Come sono questi occhiali? Col filo dorato?» si informò Luigino. «Tutto dorato!» rispose Eugenia mentendo. «Lucenti, lucenti!» «Le vecchie portano gli occhiali», disse Luigino. «Anche le signore, le ho viste in via Roma». «Quelli sono neri per i bagni», insiste Luigino. «Parli per invidia, costano 8.000 lire. «Quando li hai avuti, fammeli vedere», disse Luigino. «Mi voglio accertare se il filo è proprio dorato. Sei così bugiarda». E se ne andò per i fatti suoi fischiettando. Rientrando nel portone, Eugenia si domandava, ora con ansia, se i suoi occhiali avrebbero avuto o no il filo dorato. In caso negativo, che si poteva dire a Luigino per persuaderlo che erano una cosa di valore? Però, che bella giornata! Forse mamma stava per tornare con gli occhiali chiusi in un pacchetto. Fra poco li avrebbe avuti sul viso, avrebbe... Una furia di schiaffi si abbatté sulla sua testa, una vera rovina. Le sembrava di crollare, inutilmente si difendeva con le mani. Era zia Nunzia, naturalmente infuriata per il ritardo, e dietro zia Nunzia Pasqualino, come un ossesso, perché non credeva più alla storia delle caramelle. butta il sangue, tieni, brutta cecata, e io che ho dato la vita mia per quest'ingratitudine, finire male devi, sì, 8.000 lire vive, vive, il sangue mi tolgono dalle vene questi sforcati. Lasciò cadere le mani solo per scoppiare in un gran pianto. Vergine addolorata, Gesù mio, per le piaghe del vostro costato, fatemi morire. Anche Eugenia piangeva dirottamente. Zì, perdonatemi. Zì, zì. Faceva Pasqualino con la bocca spalancata. Povera creatura, fece donna Mariuccia andando vicino a Eugenia, che non sapeva dove nascondere la faccia, tutta rigata di rosso e di lacrime, davanti al dispiacere della zia. Ma non l'ha fatta apposta, Nunzia. Calmatevi. E a Eugenia. Dove le tieni le caramelle? E Eugenia rispose piano, perdutamente, offrendo l'altra nella manina sporca. Una l'ho mangiata. Tenevo fame. Prima che la zia si muovesse di nuovo per buttarsi addosso alla bambina, si sentì la voce della marchesa dal terzo piano, dove c'era il sole, chiamare piano, placidamente, soavemente. Nunziata! Zinunzia levò in alto il viso amareggiato, come quella della Madonna dei Sette Dolori che stava a capo del letto suo. Oggi è il primo venerdì del mese. Offritela a Dio. Marchesa, quanto siete buona! Queste creature mi fanno fare tanti peccati. Io mi sto perdendo l'anima, io. E crollava il viso tra le mani come zampe, mani di faticatore, con la pelle marrone, squamata. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.